iadul mui nu gașta faci antona basta. La fatana viada nu la fare că i-aș meta. Pensa bona mui nu gașta cede de rubini. La vide quando il tabi ferma e sbagliato qui tu che sta facendo la pasta. La fatta una gada nulla fare che vi aspetta. Pensa buono qui tu che succede dei rovini. La vita è quando è tanto capisci. A casa mia famiglia per bene, nonno contigo pagliacci. Tutti a testa ma non ottenendo problemi. E gente che face bene queste faccia apprezzare da gente seria. E non è da me nage sotto io. Qui tu che rovina la famiglia. Sbattuto in gatta puoi avere eccesso di velocità. Notizia dell'ultima ora: arrestato il giovane ventenne, nascondeva sotto il sedile posteriore un chilo di cocaina, dichiara di non essere di suo possesso. Non è mia, lo staccio come un ed è castella, ma non è mia, se l'era vista l'era già menata, non è mia, e allora di chi è? Questa bustina bianca vuota con un nastro con la scritta Colombia. Ferma, è sbagliato qui tu che sta facendo la pasta, la fatta una gata nulla fare chi vi aspetta, pensa buono qui tu che succede dei rovini, la vita è contenta tu capisci. Ferma, è sbagliato qui tu che sta facendo la pasta, la fatta una gata nulla fare chi vi aspetta, pensa buono qui tu che succede dei rovini, la vita è contenta tu capisci. A me piace lo sordo facile, cuttavo sotto a mano con tutta gente che conosco, così era sicuro e giù voluto ingrandisco, come minto allo giro è proprio da che ho sbagliato, che mi hanno ingabbiato. Si giri e metta le mani bene in vista, la manetta la mano destra, la pistola puntata a testa con la minaccia che mi era bruciato solo. C'è stato un infame che avevo contato ed è sicuro ma vero rovinato pure la vita mia, e io ti ho perso tutto, la casa, l'amici, la stia, più grande me fa il succhio, so che capisco, la madre dei bagni se fanno un pasta che a voi, ma qui c'è sempre buono. Ferma, è sbagliato qui tu che sta facendo la pasta, la fatta una gata nulla fare chi vi aspetta, pensa buono qui tu che succede dei rovini, la vita è quando è tanto capisci. Ferma, è sbagliato qui tu che sta facendo la pasta, la fatta una fiata nulla fare chi vi aspetta, pensa buono qui tu che succede dei rovini, la vita è quando ma ci ho pensato contigo cara mia, solo per uso personale, tutti non face male, no no, tu rimani qua da noi, c'è mamma che piange e ancora non ci vide, vide da me, porta non me sbatte in galera, me minte nulla divisa e un sorriso alla stampa e cheese, mamma non ci torna a casa la vergogna e ci la guarda male, male la giudica, scusa di me, ma li soldi facili mi hanno ingannato la felicità, ma ci ho fatto piare di sta merda d'euforia, non saccio come è dei mali fatti, l'hanno visti tutti. Ferma, è sbagliato qui tu che sta facendo la pasta, la fatta una gata nulla pare che vi aspetta, pensa buono qui tu che succede dei rovini, la vita è quando è tanto capisci. Ferma, è sbagliato qui tu che sta facendo una pasta, la fatta una gata nulla pare che vi aspetta, pensa buono qui tu che succede dei rovini, la vita è quando è tanto capisci.